sveglio sempre a stento. Non faccio neanche in tempo a dirti ciao, che sento il tuo lamento per come ho fatto lungo il tuo caffè. Ormai è un amore inqualificabile, che voglia irrefrenabile mi fai male, non ce la faccio più. Ma tante cose avrei da dirti, quante occasioni per pentir. Ti amavo come un Valium, non ti ingerisco più. Ma tu, papà, che mestiere fai? Come che mestiere fai? Ti compro le figurine? Sì, ma prima devi dirmi che mestiere fai. Aia.